no, ci vediamo, mi ha mandato un messaggio, cioè non siamo in campagna, ma cazzo so. No, stavo rispondendo a Massimiliano. È a casa, stavo messaggiando su WhatsApp. È dura, cosa vuoi? Che sia molle. Claudio, come l'hai messo? Verticale oppure orizzontale? No, 6,75 da un alberello all'altro. Polarizzazione orizzontale qua. Esatto. Vieni avanti, vieni. Buongiorno, bambino. Come senti a Claudio? Basso, arrivi. Ehi, number one. 8 watt e sono a polarizzazione orizzontale. Non c'è cambio, non sono a casa. Scusi, cari, quindi siamo un esercito di bambini. Ciao, buongiorno. Via. Comunque ci sono anch'io, eh. Ciao Luca, amico mio, buongiorno. Negativo, non sono Luca, sono Gianni. Comunque ci sono anch'io. Ah, ciao, buongiorno. Buongiorno, Gianni, fa un po' giù. Si è sentata a volare anche la IAI. Sei roba, ciao. Sempre dritto. È duro. Ciao Franco, buongiorno. Buongiorno Gianni. Com'è? Un attimo di bianco per me, torno subito. Caparrosmetro. E beh Franco, com'è? Come ti è? Dentro casa. Com'è? Tu qua Santiago Nova Radio 5, e io come ti arrivo da te? Sette Radio 5. Bene meda. Chi è che c'è rimasto? Roberto in Corre X, boh, Eugenio, Claudio in bianco. Gli altri due sono spostati. Luca sta smanettando. Boh. Vabbè, dai. Avanti oggi. Eugenio si è spostato. Nanni, avete lì? Non ha più poco se tu fatta la modulazione. Gianni, non me la ascolti? L'amico lo sente a mezzo al QRM, non riesco a tirarlo fuori, mi dispiace. Cazzo, dai. Sei in basso. È a posto, ma è... dove fa? KK, vabbè, salutalo da parte mia. Sono rientrato, vi annuncio il mio QRX perché devo fare cosa qua. Ci sentiamo alle prossime, ciao a tutti. Ecco. Esce da te, quello il come? Esce di vedere, a parte il rumore. Ha buttato il microfono per il caso vuoto. Sì. Anche eccoci. Si è arrivato. Oh yeah. Gianni, e beh. Ecchime, sono sempre qua. Aspettiamo che rientri un po' di gente. Vediamo un po' cosa succede, dai. E un po' di gente, chi deve entrare? Sono entrati tutti. Come vi so, pure? Ehi, aiuta a aggiustare l'antenna. Va bene, accontentatevi. A tu arrivi sempre allo stesso modo, arrivi qua. E come mai la ricezione è ancora più bassa, Natalino? La ricezione, gli ascolti più bassi. Beh, Claudio non è a Sassari. Non è a Sassari? Ma posso fare la campagna? Se in campagna c'è Monteoro. Ah, campagna sì, Claudio, non c'è più. Vabbè, alcuni mi ascolti bene, sì. Sì, il capo ho preso, segnale 7, radio 5. Anche tu, segnale 7, radio 5. Va bene, dai. Cosa c'è? Aspirapolverinazione vicino. Sembrava, mi ricordo il film di Thomas Miglia con un bombolo che facevano finta di essere all'aeroporto. Mi sta aspirando le mutande. Vediamo se è rientrato Gianfranco. Gianfranco, sei rientrato? Oh, io mi allontano un attimino, dai. Sentiamo. Io già sono qua, dai. E allora, Brofè, com'è la situazione? Dai. Si vive la giornata, no? E niente, dai. oggi è un altro giorno, oggi siamo a 28 e vediamo un po' nei prossimi giorni se migliora qualcosa, dai. Ma speriamo bene, già vi dico. Speriamo bene, dai. Bisogna avere un po' di pazienza. C'è chi la prende a mangiare e c'è chi la prende a ridere. Vabbè. Dai, o una o l'altra mi sembrano delle buone soluzioni, dai. Sì, ma infatti, già va bene, dai. Io comunque ho dimagrito 5 kg. 5 kg, forse perché un po' di ansia, un po' di nervoso, un po' di quello, non è che sto mangiando molto, però non sto uscendo, non sto facendo travisi, cioè, i panini, le cose, le stronzate, la birra, il vino, tutte queste cose non ci sono più, e quindi da quando sono a casa ho dimagrito già 5 kg, e va bene. A voglia, magari insomma... con tutta questa situazione che c'è in giro non si è portati proprio a mangiare come di solito e quindi si scende anche un po' di... anche io personalmente ti dico che non ho cambiato le mie abitudini, sono sempre quelle, quindi personalmente da quel punto di vista è tutto come prima, dai. Gaffa, va bene. Chi ti è rimasto qua in questo canale? Antonino si è spostato in ascolto, Eugenio mi pare Brueddo, Franco ha fatto uguale, Gianfranco si è spostato sul 14 però non so se è rientrato, ci dovrebbe essere Luca. E cosa sta facendo Gianfranco sul 14? No, poco fa era con Natalino che dovevano scambiarsi delle informazioni su una radio, però non so se è rientrato. Non sento nessuno io. Ho fatto la chiamata ma non ha risposto, evidentemente sta facendo altro. Ehi, va bene che va bene. Ok, dai, un attimino di bianco per me, ritorno subito già. Ok, se rimanete qua già sono qua. Anda back, dai, state con la radio accesa. Gaffa. Mangiando un pezzettino di pane carasau. Ma dove sei? Campagna? Via. Va bene, dai. Un pezzo di vino, beh. Accordato, sì. Accordato, sì. Non è stazionario, 1-1. Ma che BMR c'hai? No, non so niente. Solo 140 e ho capito, dai. Stai da un po' di giorni lì adesso. No, solo oggi. Solo oggi. Ho capito, dai. Aspetta, rispondo al telefono. Chi sei? Aspetta, chi sei? Giulio, aspetta, sono al telefono. Ok, qua. Hola. C'è qualcuno adesso, è arrivato qualcuno. Ah, vabbè, sì, ci sono io. Sono in attesa di risentire Claudio perché sei al telefono. Lei avevo sentito anch'io, però mi sono allontanato una mezz'ora, un quarto d'ora, stavo facendo roba, sentito c'era Claudio, c'era Luca, c'era Eugenio, tutti c'era, qualche donato, ma sono entrato un secondino solo a salutare perché ho visto che Claudio aveva un segnale diverso da solito, poi si è capito che era in polarizzazione orizzontale da Monteoro, comunque qua arrivava 9.40, quindi picchia 9.45, un segnale forte. Vuol dire se in campagna, vuol dire che il depolo l'ha orientato verso casa tua, per cui va benissimo. Andare. E infatti non c'è nessuno. Poi già ho dato un colpo importante e Claudio ha capito che ero io e mi ha risposto che è al telefono. No, ma io Monteoro ce l'ho di fronte, io salgo in terrazza, lo vedo le antenne Monteoro e Claudio, è proprio vicino alle antenne, sotto le antenne quelle delle televisioni private della Rai, lì vicino, per cui io lo vedo perfettamente. Se metto il cannocchiale probabilmente vedo anche a lui, se mi metto un cannocchiale potente, saremo a 3-4 km in aria, però è libero, non c'è ostacolo io davanti, sono tutto pulito. E tu la stai usando lui giù? Sto usando, sempre sotto. Sono di solito, sono usato qua, quanti watt sono? 5 watt, 6 watt, non di più. No, ti ascolto perfettamente bene, pulita la radio. Ok, c'è un avventurino sotto, forse l'ha diventato? Sì, quella sempre, switching. Quella, oppure quella avventura della radio stessa, perché è vicino. Ma l'ho messo sul comodino, per dopo. Era tutto al tavolino, dunque soltanto sul comodino c'è cioè, sia il micro che la radio. No, io switching mai ne prenderò, proprio non mi sono mai piaciuti, sono troppo delicati, io sono quelli a trasformatore, saranno pesanti, ingombranti, però non ti rompono le scatole, sono molto più robusti, se c'è uno sbalzo di corrente o qualunque, un cortocircuito resistono più, gli switching non sono per me, vanno bene per fare televisori, radio, alimentazione di radio, ma parlo dell'alimentazione interna, però esterne, io dico sempre trasformatore, se è un bel trasformatore, c'è un bel alimentatore costruito come Dio comanda, non viene pane asciutto. Vabbè, solo che questi switching sono piccoli, compatti, come un autoradio, anche di meno forse, se vanno benissimo, poi sono stabilizzati al 100%, o meglio al 1000 per 1000, a differenza di quelli normali, quelli tradizionali, che sempre qualche volt di corrente alternata c'è sempre e ti crea del ronzio sotto della radio, per cui questi sono stabilizzati al 100%, non ce ne possono essere, tensione alternata non ce ne può essere, per cui va benissimo. Io ce l'ho uno normale tradizionale, però ha due volte di corrente alternata, per cui io non lo uso, preferisco questo, tanto perché è piccolino, prende poco posto, eccetera. Il discorso della ventola, la ventola è una cosa anche normale, tra l'altro la ventola ce l'ha anche la radio, se non senti quella dell'alimentatore senti quella della radio, non è che fa poi così tanta differenza. Sì, no, a livello di tecnologia è come fare il discorso tra valvole e transistor, non c'è studio, come prestazioni, tu con un alimentatore da un chilo tiri fuori 30 ampere, e per avere un 30 ampere ci vogliono 6-7 kg confrontato a un trasformatore. No, io ce n'ho uno grosso, l'ho trovato un affarone, ce l'ho già penso una decina d'anni, buoni, della CEP, un 60 ampere, senza vetro e niente, ma pesa 20 kg, è una cosa esagerata. E poi io, per non sbagliare mai, io ho il multimetro digitale da laboratorio, adesso sto andando a 13,28 volt, vedo il centesimo di volt che oscilla fa 13,28 13,29, questo è perfetto da laboratorio, questo multimetro che ho sopra la radio, per cui sono ben attento a quelle cose e non oscilla niente. Tieni presente, questo è 60 ampere e continui dichiarati, però ne dà anche 80, per farti l'esempio. E poi ne ho un altro quello lì è un 30 ampere continui, quello lì c'è anche la ventola, sempre trasformatore, c'è la ventola, quello lì qualche volta si accendeva la ventola quando attaccavi due radio, ma questo neanche lo muovo, la lancetta tu lo vedi, è proprio una lineetta di 10 ampere, 8 ampere, non so quanto assorba questa roba qua, per cui questo è CEP, credo, non l'ho detto io, ma ha detto dai radioamatori, dicono che siano i migliori alimentatori costruiti in Italia. Sì, beh, indubbiamente è un buon alimentatore, non sono dubbi, ma sempre quello, anche questo ce l'ha sia l'ampellometro che il voltometro, questo che ho io, se io a 13,8 non lo metto mai, lo metto sempre intorno ai 12,5, 12,6, 7, una cosa del genere, perché lo faccio funzionare con quella tensione lì, anche per evitare così la possibilità magari di bruciarti le lampadine dello smitter e cose varie, perché a 13,8 sì, è la sua tensione nominale, quella che si dovrebbe utilizzare, ma io lo metto sempre un pochino più basso, visto che ha la possibilità di regolarlo, per cui va bene così, non contatto funziona ugualmente bene. Certo, se poi abbassi troppo di tensione è chiaro che non va bene, però se abbassi di un volt, tanto di guadagnato, no, non ci sono problemi. Ecco qua il discorso. Sì, come consumo questa radio consuma intorno ai 20 ampere quando si è a manetta, però se no adesso in questo momento sta consumando molto ma molto di meno, per cui questo a 30 ampere, questo che ho io, è il massimo che ti consuma, quando è a manetta ti consuma 20 ampere, per cui ce n'è in abbondanza, va bene lo stesso. Io tengo questo e questo l'altro ce l'ho e l'ho tolto, tanto perché è pesante, e poi quell'altro è a 13,8 fisso, senza strumenti, senza niente, invece questo ha i due strumenti e posso anche tenere due occhi, controllare quando ho voglia di guardarlo. Va bene, dai, ripeto. No, anche questo ce l'ha lì, tu vedi, c'è il voltmetro e l'amperometro, però siccome è sopra tutti, l'ho messo in un angolo che non si veda molto lontano dalle radio, sopra la radio mi hanno dato un multimetro di un laboratorio di elettronica, quello che c'era un amico, c'era il laboratorio, mi ha detto pure questo strumento, un multimetro digitale, c'è un sacco di funzioni, io lo metto fisso, attenzione, adesso sta andando a 13,28, no, non arrivo a 13,8, mi tengo un pochettino più basso, e rimango sempre, ce l'ho sotto davanti, è a dio di luminosi, molto visibile come indicatore, appena vedo che vedo che cosa non quadra, subito, tac, spengo, così sto attento, perché se no non riesco a vederlo quello che c'ho sotto l'alimentatore, sono due, uno a fianco all'altro, però non li vedo, mi dovrei inchinare per vederlo, così invece ce l'ho davanti agli occhi e non faccio nessuna fatica a cercare la cosa. Ok, adesso facciamo una ricerca se è rientrato qualcuno, attenzione al canale 10, compagnia Roberto da questa parte e Giulio dall'altra, avanti chi vuole entrare. È meglio che ci sia nessuno, vabbè. No, e poi io ogni tanto, ogni poco tempo prendo il test e misuro la tensione come sta uscendo, così a scanso di equivoci, no? Ripeto, lo regolo sempre a 12,5, 12,6, 7 massimo o di più, perché quando 13,8 c'è già un volt in meno, che volendo potrei anche utilizzarlo, non è che, ma non cambia niente. L'unica cosa che mi cambia magari che è meno illuminato lo smitter, perché giustamente non avendo la tensione sua, ma tanto di guadagnato, però almeno per quanto riguarda le cose di tutti i vetri e tutte le lampadine eccetera, tutto lì. Va bene così, dai. Sì, no, diciamo, li fa male tantissimo se lo sovralimenti, per dire, se li dai 15 volt c'è il rischio che lo bruci la palla, e li fa male lo stesso anche se li dai sottoalimentato, per dire, anziché dargliene, loro ti dicono dai 12 ai 13,5, 14 riesce a funzionare parecchio, però se li dai 10 volt li crea dei grossi problemi. Ma devi tenere in considerazione che questa radio qua è stato costruito anche per poterlo utilizzare in macchina, no? In macchina hai 12 volte, non è che ne hai di più, no? Per cui se io le sto dando 12,5, 12,6 va più che bene. Tu mi dirai, però quando lo usi a casa 13,8 è la sua tensione per cui è stato costruito. Poi tieni presente che i transistor reggono anche 18 volt, che anche se ne dovessi dare 14, 15 volt, va bene lo stesso, ma perché devo rischiare? Non devo rischiare tutto un bel niente, perché i finali fino a 12 volte reggono bene anche, non è che reggono male, reggono anche bene, però non è consigliabile perché la sua tensione è quella, deve essere quella, anzi l'ho messo un pochettino più bassa e va ancora meglio, io la penso così. No, non sto criticando, non è come una critica, è soltanto una discussione, io l'ho messo per comodità, perché tanto un paio di decimi di volte li perdi, vabbè, in questo caso no, ma quando c'è un alimentatore, tu per dire un 30 ampere massimi che continui a tenere a 20, lo usi appena potenza, tu magari stai, sei convinto di stare andando 12 volte, invece ne sta andando 11 e mezzo, per dire, perché un po' un calo di tensione c'è, è normale, diciamo, come cosa. Ti dico, adesso che sto modulando ho perso un centesimo di volto, due centesimi di volto, per dire, non so niente, però se magari ne ero 100 o 150, non lo ti di più. Se c'è un alimentatore sottodimensionato, per dire, un alimentatore, come ho detto prima, da 30 ampere massimi, che poi continui, magari te ne può dare 20, 18, e lì ti dico un pochettino, vedi che un po' si siede l'alimentatore, se in uso lo fai in uso continuo, piano piano scalda e si forma della, come si chiama, della caduta di tensione, per cui io sempre meglio tenerti un pochettino, un peluzzino un po' più alto, così non è il caso tuo, perché come me noi utilizziamo potenze normali entro i limiti di legge, però se qualcuno per fare degli spostamenti un po' più alti di potenza, molte volte è meglio avere sempre una riserva di potenza e tenersi un po' più in alto. Comunque la batteria della macchina, tutti sono convinti che 12 volt non è 12 volt la batteria, ricordiamocelo, la batteria della macchina a piena carica sono 13,8 volt quando l'alternatore sta caricando, poi ci sono dei picchi che può arrivare anche più in alto, però mediamente è intorno ai 13,8 volt quando è piena carica, siamo intorno ai 13, dai 13 ai 13,8, quando l'alternatore carica le arrivano 13,8 volt. Con chi stai parlando? Con Giulio. Ah, Giulio c'è. Ciao Giulio, mi senti? Sì, che ti sento qua, come no? Ti sento bene, non è un problema. Vabbè, basta disegnare, ma ti sento bene, avanti. Ehi, ragazzi, siamo in campagna. C'ho il 140 col il 60 e il dipolo da 2,75 m, full side, quello intero che uso sempre. Comunque tu arrivi 5,9, Roberto un po' più alto di te, forse più di fronte, perché sono a polarizzazione orizzontale. A me mi meraviglia là che stai arrivando a bomba, 9,40 e picchia 9,45. Ma sono davanti a te Roberto, poi a polarizzazione orizzontale, c'hai i bracci verso Sassari. Sì, ma dico, considerando che c'è la polarizzazione orizzontale, stai arrivando un segnale, nessuno ce l'ha qua un segnale così forte in città, considerando che tu sarai a 5 km in linea d'aria da me, non sei così vicino, però sei aperto, nel senso ci vediamo, nelle antenne si vedono, però cacchio, stiamo andando alla grande, magari ti sposti magari di 10 gradi, 20 gradi dall'altra parte, magari ti si abbassa il segnale. Boh, sicuramente, Giulio è poco più di 9, però sicuramente prende il braccio, quello che c'è verso Alghero, sicuramente, invece tu li prendi tutti e due in pieno, poi sei proprio di fronte, capito? Sì, vabbè, com'è questa situazione? Così, è sabato oggi, siamo voluti andare qua. No, parlo, vabbè, fai bene, sicuramente cambi un po' di aria, male non fa. No, parlo la situazione di Polo. No, non è messa antenna, no. Un dipolino da un albero all'altro, già va bene. La zona è alta, vicino a tutti, sono arrivato a Porto Torres, a Sorso, a Franco, Sassari, mi sentite tutti. Sicuramente anche ad Alghero arrivo. Quindi cosa serve mettere l'antenna? Non serve a niente. Non è una cosa definitiva. Quando sarà definitiva ci penseremo. No, ma siamo venuti anche perché ho portato via le antenne, capito? Da tre elementi, che l'ho tutta smontata, per non lasciarla ammassata, l'ho portata qua, dentro la scatola, l'ho messa nella casetta, verso gli attrezzi. Almeno è già qui e poi si vedrà quello che si fa. Avanti Giulio. Ok qua. Beh certo. Vabbè, va benissimo così. No, io stavo usando 5-6 watt poc'anzi, adesso qualche cosa di segnato ho guadagnato sicuramente, ma non lo tengo mai così a questi livelli. Anzi abbasso di nuovo così, tante luci, ecco qua. Questo così e va bene lo stesso, avanti. No, qualcuno che mi ha salutato, chi è? Qualcuno che mi ha salutato sopra Giulio. Ma che picchia? Allora da questa parte, non lo so, ho detto ciao. No, io sto usando neanche 10 watt Giulio, non è che posso tirare molto. Stazionario ne ho 1,1, senza accordatore, senza niente, va bene così, ottimo per la truppa. Ho trovato il manuale di quell'apparecchio, di quel ricevitore della Trio, c'è tutto lo spaccato, ma non ne ha tante, non ve ne una, io pensavo ce ne fossero solo nello stadio di ricezione, invece ne ha parecchie, ce ne sono 6 o 7 di qua. Lo stadio di ricezione, il Trio, no, ne ha forse 7 o 8, 7 7-8. Ho detto il procedimento è come il DAC, è come il DAC, è così, capito? È grande quanto il DAC quel trio. L'ho avuto anche io negli anni 80, bellissimo ricevitore. È un bel perché è proprio, è tutto a valvole, c'ha pochissimi componenti, il resto è tutto a valvole. Tu comunque quando lo accendi ci sono due scatti, c'è stand by e poi praticamente per ricevere. Tu lo accendi o lasci in stand by, fai caricare bene, scaldare bene la rodica della valvola e poi senti la ricezione quanto è bella calda. Se tu lo accendi subito e ti metti a ricevere è brutta la ricezione. Lascialo scaldare un pochino in stand by e poi le dai la ricezione e vedi come ricevi bene. È un bel ricevitore questo. Poi la Trio, io ho le VC50 della Trio, l'unico che mi è rimasto della Trio, perché il 780 non è Trio, era già Kenwood, capito? Mentre ho anche la T230 Trio Kenwood, c'è l'alberino e poi c'è scritto Kenwood, perché l'MC50 e la T230 della linea del 930 era Trio Kenwood, però c'era l'alberino della Trio più il segno della Kenwood, capito? Come quello, mentre l'MC50 invece c'è solo lo stemma Trio, c'è scritto proprio Trio con l'alberino MC50. Sono apparecchiature, io ne ho apparecchiature di quegli anni lì, capito? L'MC50 è uscito nel periodo che è uscito il Trio, che ha fatto il ricevitore, è uscito l'830, l'820, il 920, il 930 della serie Kenwood, prima delle serie 40, è uscito 910, 920, 930, li ho avuti tutti io. Avanti Giulio. Sì, ok qua. Adesso con questi, con i batti che ho messo adesso, il segnale dovrebbe essere più alto, confermi qua. Sei più di 9,10. Ok, vabbè, non si metto basso come la prima, ecco qua, così, va bene così, con poche batti. Andare. Quello, comunque ho costruito un'altra antenna, ho costruito, adesso la devo mettere nella canna appresso per poterla provare, ma tutto questo in un altro momento, non certamente adesso. L'ho terminata ieri sera, no. Benissimo, vedi, magari io qua per rispondere a Roberto anche, anziché mettere una Mantova, una multibanda a 5 bande, capito? Una 5 bande verticale, dove faccio anche la 27, diretta ai Tiredo 5-9 col portatilino, il VHF molto bene, queste sono prove tecniche. Tiredo col portatilino in gomma mi arriva a 5-9, molto bene. Ok, capito Roberto, più che mettere una mano a fare una verticale, 5 bande dove faccio tutto, senza fare molta mondezza, perché qua mondezza non se ne può fare, se no prendo colpi forte, capito? Ehi, Giulio, l'hai visto? Sì, l'ho visto, è bello, sì, molto bello, molto bello. Sì, cos'hai anche il Transmetch 1000 hai? Ce l'ho anch'io questo, Transmetch 1000, come cosa, accordatore antenna eccetera, lo vedo qua in questa fotografia. Sì, TM1000, cioè, sì, sono una delle prime cose che ho comprato. No, le ho fatto una bella lavata, anche l'aria disinfettata, tutto quanto. Tu le vedevi uscito, se non lo sono dal negozio, l'ho anche tolto i coperti per vedere dentro com'era, eccetera. Lì devo cambiare il filo dell'alimentazione che non mi piace, che hanno messo un pezzo di nastro, è brutto, lo passo bene, li metto l'autorefringente in modo che sia tutto pulito. Ah, quel cavo lì sarà rigido, Roberto. Compri il cavo suo, bipolare, tanto è un 220 quello, tranquillo, bianco oppure grigio, le metti la presa industriale come deve essere e le metti il cavo nuovo, una cazzata a toglierlo quello, perché se guardi all'interno è attaccato all'ingresso della 220, lo stacchi e lo metti nuovo e almeno c'hai anche il cavo nuovo, è bello, l'ho avuto anch'io, ma io non c'ho più posto, anzi ce li ho dietro la porta perché ho fatto tutti i quadretti. mi pare che ci sia, se c'è te la faccio e te la mando. L'ho avuto anch'io quello, un bel ricevitore. Però, ti ripeto, ti consiglio, come facevo io, di accenderlo, dare la 220 e lasciarlo in stand by acceso. Dopo le dai la ricezione, dopo una decina di minuti, 15 minuti, in modo che si scaldi un pochino la valvola. Senti, c'è una ricezione così calda, bellissima. È un bel ragione, non hai visto Giulio? È grande quanto il DAC. Sì, è bello ricevitore, molto bello. Certo, quando si tratta di apparecchiature a valvole, almeno una decina di minuti di riscaldamento bisogna dargli prima che possa rendere proprio come si dovrebbe. Va bene, il titolo già lo sapevo, bisogna far scaldare le valvole per il rendimento, se per stabilizzare. E l'ho notato, anche si notava anche dopo una mezz'oretta che vedevi la ricezione, migliorava tantissimo, ma è spettacolare come sensibile, non me lo immaginavo un ricevitore così sensibile. Lo vedi quanto è grande Claudio e Giulio, quel trio, quel che vi ho fatto vedere. Se tu vendi quest'altro ricevitore, che me l'ho comprato da un radioamatore, quando ce l'ho, me l'ho preso verso ottobre, novembre, non dico che sia ridoppio di quello lì, un ricevitore da laboratorio, è questo tipo Rode Schwarz della Tedeschi, questo fa da 0 a 30, poi da 80 a 108, c'ha una marea di funzioni possibili e immaginabili, attacca gli oscilloscopi. Tu hai sentito quello lì in ricezione, questo per la transito, peserà 25 kg, è enorme, c'è una cosa fuori dal mondo, ci stanno 2 4 40, una fianco all'altro, il doppio, non dico sia il doppio di quello lì, di altezza forse un po' più basso, ma di larghezza è molto più grande e più profondo. Ma quello lì c'è una ricezione, io con l'ICR 7000 della ICOM, niente, non riesce a tirarne fuori le stazioni che ritira quella. C'ha 4 attenuatori, amplificatore dell'antenna, una marea di cose. Lo so, Robè, ma tu figurati che io quando attacco il DAC, adesso l'ho staccato anche quello e non ci sta neanche dentro l'armadio, l'ho messo nell'ingresso, non ha messo la grande che c'è nella dispensa. Infatti mia moglie è sempre cazzata perché quando folvra non lo può toccare perché è pesante, eccetera. Ma quando io accendo il DAC in 27, i segnali, per dire, a Santiago 1, Santiago 2, che vengono coperti dal QRM, quella lì, essendo a valvolare, perché c'è lo stadio finale a valvole, cazzo, non senti niente, nulla, senti proprio la modulazione chiara, bassa, ma la senti molto bella, molto bene. Mentre invece con i K-Mod non la senti, la senti QRM-ata, capito? È un'altra cosa. Come io ho il 780 della Kenwood, che è un bibanda base, che è grande come il 940, proprio stessa estetica, ed è un VEU, ed è a 220. La ricezione che c'ha quel base lì non ce l'ha né il 275H della ICOM e neanche l'820H della ICOM, che sono l'ultima generazione, per dirti, capito? Poi Giulio ci insegna a tutte e due, che è lui che ha fatto radiotecnico per anni, che le valvole sono valvole, non c'è niente da fare. Vai giù. Beh, indubbiamente la fedeltà delle valvole non può essere inferiore a quella del transito. Transito, sì, tutto quello che vuoi, è pronto subito, qualsiasi tipo di apparecchiatura, però la valvola è sempre valvola. Naturalmente, parlando di apparecchiature come si deve, e poi ci sono anche le apparecchiature ordinarie che possono essere scadenti anche quelle, però di solito la ricezione della valvola è tutta un'altra musica, è più selettiva, più bella anche nell'ascoltarla, l'amplificazione è diversa, e insomma è tutta un'altra musica. Solo l'unico problema delle valvole è che nelle apparecchiature c'è tanto dentro, e dunque pesante, dunque anche molto grande come volume, tutte queste cose qua. Il transito si sa, è compatto, però è sempre un transito, la valvola è valvola e basta. Solo per questo dire, ma perché l'hanno eliminato? L'hanno eliminato per una questione di peso, una questione di volume, è soprattutto una questione di costo, perché uno è a comprare la valvola, l'altro è a comprare un transito o un integrato, ci sono delle differenze enormi in questo senso, per cui è chiaro che poi la tecnica deve andare sempre avanti, però la valvola è sostituibile, almeno per quanto riguarda la ricezione, e anche quando la parità a posto anche per la trasmissione. Sì, sì, no, sono pienamente d'accordo, io sono amante delle valvole, ma anche in alta fedeltà, in amplificazioni, diciamo, di ascolto, non parliamo di audio, non di alta frequenza. E, no, il vantaggio della valvola, ho notato la silenziosità, è molto, molto silenzioso rispetto al transistor. Il transistor ti porta presso, come ha detto Claudio, un sacco di disturbi, c'hanno un sacco di malasuste, infatti le creature, quelle di una volta, anche se sono macchine di 30-40 anni fa, riescono ancora a dare da più a togliere ad apparati molto, molto moderni e più evoluti. Però io ho sentito qualcuno forse voleva entrare, avanti su 10 ti vuole entrare. Boh. Claudio, ma tu ci avevi qualcosa dalla Drake pure, no? Per anni ho trasmesso in HF con la linea Drake, prima avevo la 4B e poi la 4C, linea completa, 4 pezzi, tutta decametrica e andavo benissimo, ma non solo, io tutte le foto te le faccio vedere, ho avuto la linea 102, sempre con lo stadio finale a valvole, sempre col preselettore, quindi accordo e preaccordo, ho avuto il 101 ZD, il 101 Digital, che è quello che ho dato a te, ne ho avuto tantissime ho radio decametriche, la linea Alicraft, no? Se tu hai una parte, perché cosa ho avuto poi? La linea Alicraft, la linea Unide, sempre stadio finale a valvole, ne ho avuto tantissime, però beh, io guarda, ho tutte le foto conservate delle radio che ho avuto, tutte, qualche giorno se le porto te le faccio vedere, ne ho avuto tantissime, non ero neanche radioamatore, ti posso dire che ho avuto tantissime belle radio, tantissime, tantissime, tantissime veramente, mi ho fatto una grande esperienza, se tu immaginati che io, ma non per vantarmi, forse sono l'unico a essere che ha avuto tutte le linee complete Kenwood, a partire dalla serie 1 alla serie, che poi vabbè 433-440 sono nati ultimi, però prima del 140 c'è stato il 110, il 120 e il 130 della serie 8 ho avuto l'820, l'830 e l'850, della serie 9 ho avuto il 920, 930, 940 e 950, ma grandissime belle radio, ti posso dire grandissime belle radio, senza tutte quelle valvolari. Carina, ma dimmi una cosa, come compare già una linea Drake se ti basta nessuno? Ha un valore di 500 euro, vabbè, non pensare che trovi prezzi ho mandato un messaggio e lo so che tu sei senza valvole perché ti mancano proprio le valvole e comunque non sono prezzi molto eccessivi, guarda il prezzo che costa oggi è quella che c'è tu, la linea Alicraft è improbabile perché ha bande verticali, è la serie vecchia del 9, vai a prendere il 930 ti costa più del 940 o 920 o l'830, l'820, sono tutte radio che sono rimaste nel cuore a tantissimi vecchi radioamatori, Roberto, capito? Vai Giulia. Ok, ovviamente ripeto, le valvole, l'unico problema è che purtroppo le valvole, se uno ha delle apparecchiature di una certa, di un certo periodo, magari ricorda le valvole perché si esauriscono e non funzionano proprio al massimo. Però funzionano sempre, fin quando la valvola accende funziona sempre, anche se esaurisce, prende di potenza, prende quello che vuoi, però funzionano sempre, a differenza di transistor, parte il finale transistor, è bloccata l'apparecchiatura, mentre invece con le valvole non è così. Però vai tu e trovo le poi le valvole ricambio, ecco qual è il discorso. Ah, ci sono anche, però contano uno che è la testa, per cui non lo so fino a che punto ne valga la pena oggi. Va bene, dai, lo stesso discorso vale per l'amplificatore lineare, tu prendi un amplificatore lineare a valvole e uno a transistor, e c'è un abisso come resa, che ti dicono un amplificatore ad esempio di 1000 watt, magari a transistor se ne dà che so io 700, 800 o di più, e quando ci arriva anche E invece a valvole più scalda e meglio funziona, è tutta un'altra musica. Avanti, Roberto. Sì, no, ma adesso come adesso, è un'altra frequenza, cioè se tu devi andare oltre i 1000 watt, sono tutti valvolari, io parlo stazione broadcasting in FM, sono tutti a valvole, cioè vedi quelli che hanno 20.000 watt, 15 watt, sono solo a valvole, perché il transistor non riesce ad arrivare a potenze così alte, dovrebbero metterli tutti in serie uno collegato all'altro, ma si creerebbero una serie di scompensi, di disturbi, eccetera, eccetera. Per cui tutte le radio dopo i 1000 watt hanno solo amplificazione a coso, a valvole, la resa a valvole è unica, soprattutto per il discorso delle armoniche, delle spughe e basta. E perché Claudio, la linea Collins è poco con... Vabbè, ma tu stai passando dalla 500 alla Mercedes, Robby. La linea Collins è corta, certo è corta, sono delle cose un po' particolari, molto molto costose, però se tu vai a prendere una linea Collins di alto livello la paghi anche 3-4 mila euro, quindi io sto parlando di linee valvolari di vecchia generazione come la Drake, come la Uniden, come la Lecraft, anche la Lecraft costa, non pensare che non costa. La linea Sommerkamp, tutte le vecchie linee Iaeggio, non vai a comprare un 101 ZD e se lo paghi 2 lire, qua ce n'è anche da 1000 euro. Guarda che quello che ti ho dato io a te, il Sommerkamp, il 101 Digital, ha un valore di 400-500 euro, stiamo parlando di una radio di quanti anni fa. Vabbè, comunque... Purtroppo le radio sono quelle che sono. Io le ho avute e ce ne ho ancora qualcuna, però me la tengo perché sono radio che danno veramente grandi soddisfazioni. Il sistema a valvole non vuole mai mollato, non vuole. Oggi gli amplificatori, ad esempio, molti per la radiofrequenza stanno comprando amplificatori trasistorizzati allo stato solido, ma se ci ricordiamo, prima gli amplificatori erano tutti a valvole. Io ce l'ho ancora a valvole, che è quello della Iaeggio. Funziona benissimo, un amplificatore da oltre un kilowatt in banda laterale, però è a valvole, quindi, anche se non lo uso dentro l'armadio, però è a valvole. Oggi come oggi tutti i radioamatori stanno andando allo stato solido perché sono più comodi, sono a larga banda, non hai bisogno di accordo, non hai bisogno di niente e soprattutto non hai il problema della radiofrequenza, che la radiofrequenza alle persone anziane può far danno, ma non solo alle persone anziane, anche alle persone giovani. Quindi, avanti Giulio. E soprattutto sono più leggeri, nemmeno la metà di quello che pesa un apparecchiato da valvola. Io ho 6 radio, quelle antiche, radio antiche, adesso ne ho 3, c'è anche un giradischi sopra, ma quando lo accendo è come se io accenda quello che un jukebox, hanno una fedeltà musicale straordinaria, proprio si sente proprio la qualità della musica, che è eccezionale veramente. Peccato che non ho poi tutto il posto per poterla mettere dappertutto a casa, perché oggi non è possibile mettersi in radio. E la cosa faccio, la cosa faccio, la fiera della radio, assolutamente no. Ne tengo una, due, alle volte, poi le altre le conservo direttamente e non se ne parla più. Però ogni tanto li provo, perché il problema di quelle radio lì è che si possono spaccare i condensatori di filtro, quelli dell'alimentazione, e se tu stai molto tempo senza accenderle, si secca l'elettrolita e poi magari si spacca. Anche se io poi le accendo gradatamente, perché il trucco è quello, no? Quando uno ha una radio che lo tiene tanto tempo senza usarlo, senza accenderlo, parlo di quelle radio così a 220 volt, il condensatore vuole alimentato un po' per volta, come con la sua questo motore, magari anziché dargli direttamente 220 o 230 come oggi, gli si dà magari, che so io, 70 volte, 80 volte, 100 volte, un po' per volta andate aumentando, così anche se si dovesse rovinare, invece in quel caso lì non si rovina per il semplice motivo che si ripristina da solo. Però è una cosa che bisogna fare periodicamente, ma noi possiamo sempre con l'autotrasformatore attaccato per far scaldare il condensatore del radio, ui, per carità, non è caldo, dai. La comunità del transistor invece tu accendi in qualsiasi momento per parte sempre alla grande, tutto lì, avanti da me. Ok, hai detto giusto, la radio al valvolo, io la radio al valvolo l'ho mollata la collezione, anche se no non riuscivo più perché ne ho tenuta qualcuna qui a casa, però in un altro locale ne ho una quarantina di tutti i tipi e di tutto, ho tenuto in casa, ne avevo 6 o 7, buchi o 8, e ho dovuto trovare dopo tanto tanto tempo, l'ho cercato un Variac e me l'ho regalato proprio il proprietario di questo trio, quello che mi ha dato il trio, è una bestia lo stesso questo Variac, di quelli col monopolone grande che fa davvero fino a 320 volt, addirittura questo ti aumenta la tensione, lo puoi fare in continuo, ma è una cosa esagerata, cioè Made in USA, California, ho fatto questo qua, l'ho trovato su internet, ma è una cosa spettacolare. Adesso devo fare la cornicetta, siccome si è cancellata la cornice dove ci sono le tensioni, che varia davvero, ma ho fatto la prova in officina con un coso, con un trapano per regolare la velocità, tu devi vedere proprio, e misuravamo la tensione col tester, devi partire da 0 volt, non proprio da 0, no, diciamo da 15 volt, lo puoi portare fino a 320, arriva, perché non capisco che logica c'ha, dopo un certo punto si solleva la tensione, ma è spettacolare, per le radio, come hai detto tu, bisogna partire almeno da 70-80 volt, tenerle un po' accese, poi piano piano sollevare, se no hai condensatori a olio, spacchi tutto e bruci tutto. Sì, perché così, cioè uno che ha un minimo di coso, di pratica dovrebbe fare così, solo che non tutti lo sanno, allora cosa fanno? Attaccano, accendono, pum, e spacca il condensatore. Allora spaccando il condensatore, oggi si blocca addirittura, o perlomeno senti un rumore di fondo con un'alternata micidiale che non è possibile ascoltare la radio, invece in quel modo lì, proprio per prevenire eventuali danni che potrebbero causare dando l'alimentazione diretta, si alimenta a basso voltaggio, si alimenta per qualche ora così e poi si va andando aumentando, in quel caso lì il condensatore, anche se è caduto precedentemente, si può ripristinare, anzi si ripristina sicuramente. Ma tutto questo, ripeto, solo esclusivamente nei condensatori a 220-230 volt, che non è vero invece quando ci sono, come ha detto, dei baracchini condensatori, ma quelli non si seccano mai, quelli attacchi il baracchino dopo 2 anni, 3 anni, funzionano sempre. Perché ho sentito tante volte dire, ehi, mi si è guastato il condensatore, ma che condensatore, mi si è guastato qualche altra cosa, ma non il condensatore. Perché quando sono a 12 volte non si secca, sono male quelle che alle volte sentiamo. Vabbè, dai, avanti con Claudio. Ma infatti è proprio così, come hai detto tu, no? È che ti si secca, che ti si sfascia così, ti si secca e basta. Sì, roba riconosco, ma poi te l'ho detto, io la roba di Giovanni la conosco tutta, lo so che cosa c'ha, cosa non c'ha, tranquillo, o cosa ci aveva, che cosa ha fatto fuori, eccetera. Sono stato da lui, lo so perfettamente. Voleva da me una radio, poi non siamo messi d'accordo, fece Baretto, se no oggi avrebbe avuto anche delle radio mie. Vabbè, comunque. Da lui, io trovo per quel trio, se le serve un base VU, così rientra in radio, visto che non fa più nulla, io glielo posso anche dare, posso fare un cambio, ma comprarglielo no, perché non me ne faccio niente, non ne butto soldi per comprare quelle cose lì, vabbè, tanto poi lo metto lì, lo accendo, cosa me ne faccio, sono radioamatore, sé anche va bene avere un bel ricevitore, ma io sono radioamatore, quindi ho il ricetrasmettitore, cosa mi metto a comprare il ricevitore? Non me ne faccio niente, capito Roberto? No, ma io lo prendo, se lo prendo adesso, per adesso ce l'ho io qua, poi magari me lo regala pure, come mi ha regalato un sacco di cose lui, e se lo dico a me, ti do tanto, me lo tolgo, ma io se lo prendo lo accendo, lo collego alla stazione, tanto spazio ne ho a Puglia, vabbè lo devo spostare qualcosa, però già lo trovo lo spazietto, no, mi ha meravigliato, ti ripeto, non me l'aspettavo io che fosse così sensibile in ricezione, proprio pensavo fosse una di così vici, lampante, perché era un po' sporco, un po' svelato, diciamo, ha detto questo manco accende, invece cazzo ed è anche forte la radio, addirittura deve attenuare perché c'ha l'amplificatore dell'antenna, quando sono segnali troppo forti satura, allora li deve abbassare, poi c'ha l'accordatore dentro, io l'ho aperto per vedere come l'ha fatto, tutto coperto, tanto sono 6 o 7, 8 viti mi sembra che c'ha, è facilissimo da aprire, e ho visto come è costruito, cavolo, un sacco di cose, ci ha fatto proprio come si faceva una volta la cosa, cioè ce n'è di componenti, poi ho visto tutte le valvole schermate, un bel lavoro chi l'ha costruito, diciamo erano altri tempi, adesso sarebbe impensabile, costerebbe decine di migliaia di euro una cosa del genere, ma sono convinto che quando ai tempi sui qualche spiccioletto costava quell'apparato. Un sacco di soldi, ma hai visto il condensatore variabile che c'è all'interno? Di cosa è fatto? Sì, no, sto dicendo, è spettacolare, ma poi ho aperto anche il coperchio di sotto, ci sono tutti nel fondo del coperchio, ci sono dei furi e ci sono disegnati i punti di taratura, c'è scritto questo aveva la prima, bassa, come si chiama, media frequenza, poi l'altra, ci sono tutti i valori sotto, cioè uno, adesso non te ne fanno più di cose così, è tutto sigillato, poi invece sono tutto proprio in modo da ripararlo, se uno deve fare delle tarature e cose del genere, fa veramente bene, non so quanto costava negli anni 70 quando è uscito, ma penso un milioncino sicuramente li poteva costare. Non lo so, non me lo ricordo, però guarda, quello ce l'aveva in vetrina Mario Nottari quando io ho comprato il 430, quindi ti parlo del 1986, e costava una barca di soldi, che io il primo 430 l'ho comprato nel 1986. Capito, avevo l'FT 757, la prima serie, perché poi è uscito il 757 GX e il 757 GX2, io avevo lo Iaeso FT 757, il primo, sempre comprato da Mario, e poi gliel'ho versato e mi sono preso il 430, da lì io sono diventato kenwoodiano, non ho più cambiato, sempre kenwood e basta. Tu immaginati che di quella serie che hai tu, Trio, la Iaeso, che prima si chiamava Sommercamp, ha fatto il Sommercamp, l'FT50, che io ho dato a Gianni Capri 2, uguale a quello, stesse dimensioni, 0,30 a valvole, ok? L'ho dato in cambio della linea Alicraft, abbiamo fatto un cambio, perché lui non se ne faceva niente, non poteva andare in trasmissione e invece poteva ricevere, e allora abbiamo fatto un cambio. Non so se ce l'abbia ancora o se l'ha data a quel suo amico di Cagliari, sempre un cambio come fare un 440 o con la linea con un 757 GX2, che ha fatto una grandissima stronzata. Quindi non solo la Trio Kenwood, la Trio allora aveva fatto il ricevitore, ma l'aveva fatto anche la Sommercamp, che poi è diventata Iaeso, capito? Sì, infatti questo che mi hai dato tu, Digital, il 101 Digital è della Sommercamp, che poi è passato, è diventato coso, della, come si chiama, come hai detto tu, Iaeso. Ma io ho due radioricevitori, che lui uno me lo sta tirando in tutti i modi, dammelo, ti do l'MT3000, però non glielo do, me lo tengo di scorta perché mi sono innamorato della Grunding, il satellite 3004, se volete guardarlo su internet cercatelo, se no vi mando la fotografia, e allora negli anni 80 costava più di 700.000 lire, quello che me l'ha regalato questa signora, che è morto il marito, che era un professore universitario, che lui studiava le lingue orientali, c'ha le bande laterali, c'ha roba di 15 o 16 bande, una cosa esagerata, c'ha le scale graduate e più c'ha il coso digitale, c'ha uno strumento enorme, ma tu lo devi sentire in ricezione quell'apparecchio, io non ne ho mai visto di radio, è tipo un radione gigante, dai, a transistor, portatile, vabbè funziona anche a 220, io lo sto alimentando a 220, funziona anche a 220, che a cosa? Non ho mai visto una radio, senza arrivare a questi ricevitori specifici, che funzioni bene come quello lì, io con l'ICR 7000, con l'antenna esterna, questo lì da mattana, con l'antenna interna c'è un'antenna da 1,5 metri, lì da grossa mattana, dentro casa. Sì, questo è lasciato un attimo in bianco. No, no, ma vabbè, possiamo stare giorni interi a parlare con me. Io le conosco tutte. Tienitele. E non dare quella parte che hai in più dell'Alicraft. Non le dare. Quelle là gliele ho tirato io, non le dare. Non le dare assolutamente. Grande valore che tu hai è il TS711, quello della Kevo, del monobanda VHF base. Che se trovi il gemellino o l'811, quelli hanno un valore tutti e due assieme di 1000 euro, stai molto attento. Anche quello che ti ho dato io, sempre della Kemud, che cos'è, sempre VHF base, lo stesso, quelle radio che ti ho dato io hanno un grosso valore, grossissimo valore, Roberto. Grossissimo valore, oggi hanno un grossissimo valore e te lo date perché so che tu sei un grande collezionista e che le tieni, perché molte volte ho dato delle radio che mi hanno chiesto, me le ho proprio tolte la bocca come si dice, e convinto che le tenessero per così per averle, e poi se le hanno vendute, se le hanno fatte i soldi. Quindi molti mi chiedono, me lo dai? No, non ti do niente, non ti do niente perché intanto te lo vendi, invece so che tu non dai niente, te le tieni, e le radio che ti ho dato io, che te ne ho dato un bel po', sono tutte di grande valore. Il 711 oggi ha un valore quanto un 440, quindi se trovi l'811 da accoppiare a fianco, perché hai visto che il 711 è simile al 140, è uguale, preciso identico, non è che cambia molto. Se trovi l'811 e glielo affianchi, c'è una linea completa VU da favola. Non hanno grande potenza quelle radio, hanno 25 watt entrambi, però hanno una ricezione, una trasmissione, hanno le bande laterali, hanno tutto, sono veramente dei bei pezzi. Quindi tieniteli, non darli a nessuno, tieniteli. Quella roba che ti ho dato io, tienitela, perché c'hai veramente delle bellissime radio. Vai Giulio. Sì, l'avevo vista io la stazione di Roberto qualche annetto fa, me l'avevo fatta vedere, era veramente una bella stazione. Va bene, dai, io vi saluto, che comincio a preparare la stufa, così almeno la carichiamo, eccetera eccetera, e poi la accendiamo anche, così stasera è calda la casa, perché la mattina qua non difficilmente la accendiamo, bisogna che faccia veramente freddo per accendersi, perché non è nemmeno il caso, perché comincia a fare le pulizie, apre le finestre eccetera, perché è inutile accendere la stufa. Mentre invece è arrivata l'ora, la preparo, la carico, poi i sacchi e dunque pronta per stasera. Ci sentiamo, ciao Claudio, ciao Roberto, io ascolto fino a lì, poi chiudo, dai. Ciao a tutti e due, avanti Roberto. Ciao Giulia, ben sentito come al solito, sempre un piacere. Buona carica e buon tutto poi stasera, tanto non ci muoviamo nessuno, poi se coincide ci risentiremo. Avanti Claudio. Eia, lo stesso noi. Non è bello il tempo, c'è freddo. Sicuramente ce ne rientriamo dopo pranzo, quindi stasera sarò a casa. Ciao Giulio, buon pranzo, buon tutto, ci aggiorniamo stasera, dai. O sono qua o sono a casa stasera, non c'è problema. Adesso vediamo cosa decidono, a chi fa freddo. La Giovanna sta a lampada in Ungheria. Lui non si può fare molto. Ciao, buon pranzo, buon tutto, alle prossime. Quello l'altro apparato era il TS700 Class. Infatti ti ho dato il 700, il 711, il 700 e prima del 711. Hai veramente dei bei pezzi, Roberto. Tieniteli custoditi, perché guarda, io ho un elenco di un collezionista di Milano dove io gli avevo mandato dei microfoni, delle altre cose eccetera, li voleva quei pezzi, addirittura mi voleva dare un HF di ultima generazione, capito? Perché proprio aveva quantificato lui dei prezzi veramente buoni. 711, se vai a cercarlo non lo paghi meno di 350-400 euro, mentre l'811 non lo paghi meno di 500 euro, non c'è niente da fare, capito? Poi il 700 mi pare era intorno alle 300 euro, dalle 250 alle 300 euro, quindi tieniteli, senza contare il 101 digital. Il 101 digital l'ho visto ultimamente a 500 euro, 500 euro stavo vendendo. uno di Reggio Emilia, 500 euro, c'era proprio la foto precisa identica a quello che è, capito? Quindi tieniteli quei pezzi perché sono veramente molto molto pesanti. Io avevo l'altra base con tutta quella roba lì, infatti l'ho tolta perché alla fin fine era tutta roba in esposizione, roba sì che accendevo, però non la usavo, quindi si accumulava solo la polvere. E ho fatto una base unica con gli HF, le V e le U e tutta la parte 27 che sono 430, 440 e 140 basi. Tanto roba inutile stare a mettere tanta roba e poi non la usi. Guarda, adesso io ce le ho tutte collegate, le radio le accendo ogni tanto, anche se non le utilizzo, nel senso non trasmetto, però almeno in ricezione funziona. Ma dimmi una cosa, ma in banda in coso, in VHF, ci va qualcuno anche in banda laterale? Certo che andiamo in banda laterale, abbiamo tutte le direttive, ma tu non ascolti il V. Adesso ad esempio, se tu accendi il 711 e lo metti a 145 787.5, che quello è l'R7 Alfa, c'è sempre gente. Se lo metti a 145.525 c'è sempre gente, ok. Se lo metti a 145.662.5 che è l'R2 Alfa, c'è sempre gente, Roberto. Tu non le stai usando, cazzo, c'hai l'antenna, accendile le radio. Se tu lo metti sull'R7 Alfa, guarda. Cioè stanno parlando ed è un ponte che ha ittiri, quindi ti arriva a fondo scala, non hai problemi ad ascoltare. Adesso ero su 525 acceso, dov'è il ponte di ittiri? 787.5 145 787.5. aspetta, togliamo 787, 6 7 37 47, aspetta, sono quasi arrivato, sto girando perché ce l'ho in alto. Allora, 145, 787 mi hai detto. Sì, 787.5, non li senti? Aspetta, vabbè, devo commutare, punto 5 hai detto, aspetta. Vabbè, devo commutare l'antenna, dai, sul lato ricevitore è montata l'antenna, adesso non voglio andare dietro a toccare. Quella lasciatela lì, mettitelo sul 711, quella è l'R7 Alfa, c'è sempre gente, tutti i santi giorni, sempre QSO. Vedi, sta parlando Walter, c'è sempre gente, io sono sempre lì, entro in ascolto a 525, poi ce ne sono punti, magari quando ci vediamo ti do un po' di frequenze, però sono tutti attivi, capito? Giusto per ascoltare, così le metti in ascolto quelle radio che hai. Sì, no, vabbè, normalmente io attacco l'ICR 7000, con l'ICR 7000 ho tutte le memorie, sono tutte memorizzate, adesso mi metto anche questa frequenza che mi hai dato tu, mentre CW ormai non ci va più nessuno sulle V, no, no, non fanno in HF, CW siamo un po' scarsi, perlomeno, radioattori sassaregli. Oramai si va in digitale, Robè, sono tutti in digitale, capite, una HF si va in digitale, in VNU così si va in diretta sui ponti, due chiacchiere a 525, però oramai c'è tutta la parte digitale, capite? Io ho anche la parte digitale, sia in VHF che in UHF. C'è una radio che va in V e in U ed è proprio in SDR, MDR, non so come cazzo si chiama. Sì, ormai il futuro è quello lì. Infatti anche le radio analogiche tra un po' scompariranno, le radio FM che ascoltiamo tutti i giorni passeranno in DAB, stanno già passando piano piano, ecco, la SAFER ancora non è attivo, io ce l'ho preso un piccolo ricevitore DAB, però ancora non venuta, le devi ascoltare per il momento analogico, il futuro è quello, come è nata la televisione digitale terrestre, andrà avanti così, per cui ci sarà meno saturazione di frequenza, però dovrei cambiare tanti apparati che prima andavano bene e non serviranno più a niente, perché sarà tutto in digitale, però è sempre bello sentire qualcosa. Okay, io ho sempre il patch, ti ricordo il patch che avevo preso, ma avevi preso tu, Class? Sì, alla grande, è anche quello, io ce ne ho 3 o 4 dentro l'armadio, a parte il DAC. Però non c'ho spazio, ho fatto proprio la parte essenziale, cioè ti mando la foto, con, ti ripeto, la parte HF, la parte VU e la parte 27, basta. Più di quello no, cosa devi fare? Lo so pure, non dici pure, piano piano anche la passione un po' si attena, ogni tanto ci si ritorna, ecco, io all'inizio ero molto molto appassionato, però il tempo è diminuito, adesso sto facendo altre cose, mi sto occupando di altre cose. In questi giorni che siamo chiusi in casa, la madre ci sta entrando più spesso, ma ero da tanto tempo che non stavo entrando. No, ma grazie a Dio nel mio piccolino già qualcosina già ce l'ho, dai. Ti ho dato un bel po' di radio io, anche se non li usi perché non hai la licenza, però sei abbastanza attrezzato, poi c'hai tutta la parte tua, tutte le altre cose, vabbè. Però ti ripeto, se vuoi ricevere bene, se vuoi essere completo, devi avere un attimo di spazio, di tempo per montare quella verticale e soprattutto utilizzare le radio VU che hai per fare ascolto. Basta, poi per la 27 si è organizzato, per tutto il resto si è organizzato e va bene. Io ho tutto, robè, non uso quasi niente, tu hai tutto e non usi quasi niente, alla fine cosa ce ne facciamo, robè? Non ce ne facciamo assolutamente niente, capito? Tutto qua, vabbè, io adesso sono una meno un quarto. Adesso infatti ti lascio, andiamo a mangiare. Ok, Claudio, grazie per la chiacchierata, ci sentiamo questo pomeriggio se ci sei. Va bene, dai, buon carica, se mi fa la saluto a tutti gli eventuali amici qua sul canale 10, QRT da parte mia, ciao ciao. Ciao Robè, anch'io, dai, saluto a tutti, mi sposto un attimino qua, vediamo cosa c'è di buono e poi dai, nel caso ci sentiamo stasera o da qua o da Sassari. Ok, ciao Robè, grazie a te del QSO, ciao a tutti, buon pranzo.